discesa lì poi è un po' chiusa, capito, un po' a piedi, e quindi niente. Vabbè, provalo diversamente, io ti ascolto benissimo, il segnale è alto, la radio è buonissima senza nessun problema. Avanti Anto. Positivo. Ma no, io, vabbè, da poco sto parlando con un torre mitraglia, e l'ho accompagnato fino al fine, la puntata del fine, mi sentiva proprio pulito. Io lo ascolto benissimo, senza problemi. Sì, no, ma anche io già, un po' bassino, però già lo sento pulito. Sì, dai. No, l'altro giorno, la domenica scorsa, quando ci siamo sentiti, che ero lì alle saline di Sinti, non so, io ho bello come l'ho acceso. Sì, a me? Certo. Appagappa. E vuol dire sono aperto per quella zona. Molte zone sono chiuse, molte zone sono aperte, e già va bene così, dai. Sì, vorrai ogni tanto ascoltare qualcuno di nuovo. Appagappa. Riprendi a Claudia e poi dirà. Deu. Via, via Genoghe. Sono qua. Stavo guardando una cosa alla televisione. Va bene. No, non va bene, ma queste zone poi sono abbastanza libere, o va bene. Sono abbastanza libere. Bello tutto l'attorno, c'è tutta la costa qua su, non c'è ostacolo, anche se si vede a sentino va più che bene, non problema. Non è andato più, non c'è tanto. No, mi ha detto che ha fatto un attimino di bianco, non so cosa stava facendo, ha detto che stava facendo un attimino di bianco e riprendeva subito. Positivo. C'è una domagnata ora, lui sta sempre vicolizzando, come si dice, sempre rinforzandosi. Robert, dove si dà giù scendendo la zona bassa? Praga. Ah, quindi sei qua in zona vicino a noi? Sto scendendo via Carlo Felice, mi qua c'è il comando dei vigili urbani. Infatti vedo il segnale, sì, 9.40. Sì, 9.40, già va bene. La modulazione è perfetta, no? Non ci sono problemi. È più che ottima, più che ottima. Gappa. Può succedere un po' di distorsione, qualcosa, ma è causato sempre dalla vicinanza, quello. Quando la voce non è pulita e quando sei vicino va un po' di distorsione, niente in particolare. Non ho sentito la domenica. Ho sentito chiamare l'altro giorno, però stavo mangiando, non ho fatto il tempo a risponderle. Va bene, riprendi Anto, raccontatemi qualcosa io. E cosa devo raccontarti? Io ovviamente non ho fatto, sono andato due pannelli di qualche cielo, adesso domani prenderò la tinta, verniceremo un po' questo dal cielo, vediamo un po' cosa ne esce pure. Gappa. E tutto qua, un po' stanchino, lavora la testa al sole. E che ci può fare? No, boh, fatto è. Fatto va tu. Io ho trovato sempre da verniciarmi qui temo ci fuori. Però aspetto che ci sia un po' più di fresco. Prossimo mese. Se riesco a liberarmi qualche settimana, vediamo. Ancora non ho notizie dalla domanda che ho fatto. Non so come stai lampada, ce l'hai bruciata, ho fatto la domanda già dalla settimana scorsa, per le ferie. Mi hanno detto di farla per iscritta. La dirigente me l'ha già firmata, però Cagliari non ha dato ancora esito. Esitemo. A finichita. Se non date in esito, l'esito lo do io. Ebbene, ti fare per raccomandata, così ti torna ricevuta. Se no, quando torna firmata, se non c'è niente, tu vai, tanto l'ho firmata. c'è una guerra a maniera tra Sassari e Cagliari, cosa? Uno di picchi e l'altro le pone di guri. Lascia perdere, guarda. Non so, non mettere le palle piene. No, qua Sassari non c'è problema. Quindi uno solo dirigente, gli altri sono tutti colleghi, no? Facciamo tutti la stessa cosa. Ma il mio dirigente non ha nessun problema, non ha già firmato. Ma è proprio lui per me, vuole andare. Solo che ha detto meglio aspettare la risposta da Cagliari. Cagliari non mi ha contattato, io aspetto la prossima settimana, la prima settimana di settembre. Se non ci sono le ferie, allora Dio Claudio se le prende, capito? K, ma dove lavori tu? Alla regione? Ho un quel carrozzone che si chiama Panova. Ah, bellissimo! Roba di acqua che ci avete, mamma mia! Roba di buffi, vabbè, ma non è va. Io sono in forza sino a 30, giù a Porto Mese con la Trinità. C'è una porta grossa la ginara, quindi lo sto seguendo io. Vabbè. E che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare, Daniele? Non tutte le ciambelle escono col buco. Mi sa che mi porta Antonio, Romano. Edo di buchi ci mi intendi, vero Anto? Sì, io non ti disegnato, va bene. Io ho portato un bicco. Di bambara, ma te sei preso come ti mi ha buccato. Se ti dico cosa è successo su giù nell'isola, ti metti a ridere, cazzo, ti metti a ridere. Ma è una colpa. Ero tre giorni, no? Adesso non aspettavo l'altro subito stamattina perché non avevano pagato le fatture, cazzo. Il debito, perché quindi la regione le prende tutto in mano. studiate TV e litigare in maniera orribile. Tutti bravi politicamente, i gatti fanno schifo, mi fanno schifo, ma capite? Mi fanno schifo, cazzo. Bisogna andare a trovare un corso qua per lavorare. Gli decentrati tutti dagli anni, a Gianni Abeti, e pretendono cazzo di avere un comando e di avere un titolo. Ma ci non sanno mai cosa vuol dire lavorare. È vero così, è così come ti ha pagato, tu io per carità vergognoso sono a parlare, l'altro giorno c'era, non so se hai visto 3G, hanno fatto vedere un dibattito, una cosa, un intervento aveva fatto 3G contro di noi. Un utente che praticamente da 5 anni che non arrivava l'acqua, è andato un sacco di volte, è tutto documentato, ha fatto vedere tutto 3G, dove chiedeva sempre l'intervento, le letture, le cose, la fatturazione, non è manco mai cagata, alla fine il bar ha rimandato leva di 30 anni tutta a pagare. Alla fine, per chiudere, ha chiesto la rateizzazione, gli hanno rateizzata, sì, in 3 volte, a 500 euro alla volta. Dai, no. E si dice una viaggia? No, ma infatti non abbiamo. Ha chiesto un intervento alla televisione proprio per quello, perché tra l'altro è una ragazza madre, disoccupata, assistita dai servizi sociali, sono un sacco di casini, va lì. E l'hanno minacciata. Dice, mi hanno minacciato che se entro tale data non pago la prima rata mi chiudono l'acqua. Sì, allucinante. Ci viene pagato 2 dei debiti. Sì, ho visto, tu via, a calendario, va bene, lo vivo io. Ma è tutto Luca. L'altro lo stavo mangiando, tu da lì, ancora mangiando stai. Ma tu mangi a 2 da culo, lascia poco. Perché? Non era pronto. Quando vuoi andare a mangiare, dimmi. Adesso sono qua io intanto, sto guardando la televisione, c'è problema. Dici che ha pagato. Tu vado a essere pronto, così. 10 minuti, possiamo andare a tornare. Vai, anche se c'è problema, già sono qua io. Non c'è problema, sono qua. Mando un colpo di bippi, già ti rispondo subito. Ehi, capa, faccio un po' di carica e vengo subito. Va bene, d'accordo.